Intanto cominciarono a colpire con i bastoni e aizzare i cani contro chiunque si attardasse. Uno degli interpreti si avvicinò e mi chiese l'età. Ho compiuto 15 anni a novembre. Ti domanderanno l'età, tu rispondi che hai 18 anni. Perché devo dichiarare 18 anni se ne ho 15? È importante, non lo dimenticare. Ho ritrovato la mia scheda nell'archivio di Auschwitz e ne conservo la fotocopia. C'è scritto Piero Terraccione, paternità Giovanni. Il numero in alto a sinistra del foglio è A5506. Il numero che mi venne tatuato sull'avambraccio sinistro. Anni 18, studente. Quel prigioniero mi ha salvato la vita. Avessi dichiarato i miei 15 anni, sarei stato mandato a morire insieme ai bambini. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Afferro il telefono. Pronto, come stai? Senti, ho avuto un problema di sicurezza oggi. Com'è che si chiama sto giornalista? Voglio parlarci. È ora di uscire dall'oblio. Faccio l'intervista e racconto tutto. Basta. Storie di narcotrafficanti e di bunker in una puntata dedicata ad un nuovo vizio, quello dell'oblio. All'inizio sembrava solo un ragazzone allegro e sorridente. Un'impressione fuorviante, naturalmente. Ma Kobe Bean Bryant ha dovuto lavorare sodo per dimostrare a tutti che niente poteva scalfirlo. Soprattutto nel corso della sua tormentata stagione d'esordio. Io ero lì la sera in cui segnò i suoi primi punti su azione nella NBA, con un tiro da tre allo Charlotte Colosseum nel dicembre del 1996. A fine partita rientrò caracollando nello spogliatoio e mi dedicò un vigoroso soul shake, palmi a contatto, dita a uncino e un bello strattone. Non aveva la minima idea di chi io fossi, se non uno dei tanti giornalisti armati di registratore di blocchetto. Ma aveva troppa voglia di festeggiare insieme al mondo. Più avanti, nel corso di quella stagione, mi ritrovai da solo con lui in uno spogliatoio vuoto a Cleveland. Era il weekend dell'All-Star Game e la NBA festeggiava il suo 50° anniversario. Kobe doveva partecipare allo Slam Dunk Contest, la prestigiosa gara delle schiacciate. Parlammo del suo status di rappresentante ideale per una generazione di talenti che si stava affacciando proprio allora alla NBA, la selezione di rookie più giovane di sempre. Kobe mi descrisse le difficoltà, le aspettative, i rischi e le molte tentazioni che una metropoli pericolosa come Los Angeles offriva ad un atleta appena diciottenne. Mi confessò fino a che punto lo aveva scosso a 13 anni l'annuncio di Magic Johnson sull'HIV, e di come sarebbe riuscito a evitare le lusinghe che avevano portato Magic, per sua stessa ammissione, ad avere rapporti sessuali con un numero di donne che oscillava dalle 300 alle 500 ogni anno. «Per me non sarà difficile», mi disse Kobe Bryant, «perché voglio ottenere ben altro dalla vita». E noi abbiamo pensato di ricordarlo così, Kobe Bryant. La notizia è arrivata ieri sera, ormai la sapete tutti, anche tutti i convocati ne ha parlato giustamente in maniera ampia. Era un personaggio che andava oltre al basket, era un personaggio che si conosceva a prescindere dal fatto che si fosse o meno patiti di basket. Noi l'abbiamo ricordato appunto come facciamo con tutto e con tutti, con una piccola storia che è tratta da un libro bellissimo. Se non lo conoscete, se vi interessa sapere qualcosa di più, magari proprio adesso, in questo momento preciso, storico, preciso, qualcosa di più di Kobe Bryant, leggetevi Showboat, la vita di Kobe Bryant, scritto da Roland Lazenby. Roland Lazenby è un giornalista americano che aveva già scritto un libro su Michael Jordan, sul più grande di tutti senza dubbio, e qualche anno fa, credo sia del 2016-2017, era stato pubblicato questo libro che raccontava appunto la vita di Kobe, e noi l'abbiamo, non potevamo non ricordarlo in qualche modo, l'abbiamo ricordato come facciamo sempre attraverso una storia. Oggi però la puntata è una puntata particolare a proposito di ricordo, perché è una puntata che analizza un nuovo vizio capitale. Linee d'ombra è un programma che racconta storie legate ai vizi capitali, quelli vecchi e anche quelli nuovi, e oggi è proprio dedicata uno di quelli nuovi. Dalle storie che ci sono arrivate e un pochettino da quello che accade intorno a noi, abbiamo sempre di più la sensazione, e non siamo certo noi a dirlo, e la giornata di oggi lo testimonia, che uno dei vizi sia proprio quella della dimenticanza, cioè del dimenticarsi delle cose importanti, delle cose che ci rendono chi siamo, che rendono chi siamo noi personalmente, come persone, quindi privatamente, ma anche chi siamo noi da un punto di vista sociale, da un punto di vista umano in generale. Era per questo motivo che 15 anni fa, il primo novembre del 2005, è stato istituito dalle Nazioni Unite questa giornata, cioè il 27 di gennaio, come la giornata della memoria, cioè la ricorrenza che celebra la commemorazione delle vittime dell'Olocausto. È stato scelto il 27 gennaio perché è stato il giorno in cui 75 anni fa, cioè nel 1945, le truppe dell'armata russa liberavano il campo di concentramento di Auschwitz. Noi abbiamo deciso in questa giornata, cioè nella giornata di memoria, di inaugurare questo nuovo vizio capitale che abbiamo chiamato il vizio dell'oblio, e lo analizzeremo, meglio, noi non analizziamo niente, come sapete, noi raccontiamo storie, quindi a modo nostro lo faremo, vi racconteremo più storie, vi racconteremo la storia di un uomo che ha dato moltissimo allo Stato, al nostro Stato, al nostro paese, che è stato un infiltrato per la polizia, e grazie a lui è stato sventato un enorme traffico di cocaina, e ahimè purtroppo di lui si sono un po' perse le tracce. Fortunatamente se ne è tornato a parlare in questi ultimi tempi, al punto che uscirà una serie televisiva a breve sulla Rai che racconta la sua storia. Ma c'è stato un momento della sua vita, e noi vi racconteremo proprio quel pezzo di storia lì in cui lui, dopo aver dato tantissimo allo Stato, dopo essersi di fatto dato totalmente allo Stato italiano, la sua vita, la sua giornata, la sua famiglia, il suo lavoro, era stato in qualche modo dimenticato. E in questa puntata dedicata al nuovo vizio dell'oblio apriamo con la sua storia, e più tardi invece vi racconteremo una storia che parla sì dell'Olocausto, ma da un altro punto di vista. Non entreremo nei campi di sterminio, staremo fuori, lo guarderemo con gli occhi di un figlio che scopre una cosa terribile del padre e va alla ricerca di un luogo in cui il padre è morto o probabilmente si è ucciso, proprio per non finire nelle mani delle persone che lo cercavano, essendo lui stesso un nazista. Vi racconteremo queste due storie, lo faremo in questo pomeriggio, in questo 27 di gennaio, che è il giorno della memoria. Benvenuti a Linea d'Ombra. La storia che vi stiamo cominciando a raccontare, la storia di Gianfranco Franciosi, inizia il 23 gennaio del 2005. Come tutte le mattine, lui si è svegliato presto. Prima di andare al cantiere navale dove lavora come meccanico specializzato, accende la TV. Il TG della mattina apre con la notizia di un agguato nei confronti del connettore tra malavita romana e clan camorristici. A farne le spese è il boss, si chiama Tortellino, chiamato così perché è robusto, di buona forchetta. Gianfranco, da casa sua, impallidisce. Tortellino era un cliente molto preciso ed esigente, che diceva di avere un diving sul litorale romano, gli ordinava gommoni molto veloci e in tempi molto brevi. Gianfranco, finita la colazione, va al commissariato e racconta che quel boss, che aveva appena visto crivellato di colpi in televisione, era di casa nel suo cantiere. Scopre così che i suoi gommoni elaborati erano utilizzati per trasportare grosse quantità di droga. Quando esce dal commissariato è convinto di aver fatto il suo dovere, che tutto sia finito. In realtà per lui tutto deve ancora cominciare. Qualche tempo dopo si presenta da lui un ragazzo spagnolo accompagnato da un omone italiano. Il giovane dice che lui, a detta di Tortellino, è il migliore meccanico di fuoribordo in circolazione. Gli commissiona 3 motoscafi, gli anticipa il pagamento in contanti, gli consegna un telefono satellitare e gli regala un Rolex. Gianfranco accetta il lavoro, poi aspetta che se ne vadano e torna al commissariato di polizia. Scopre che quel ragazzo si chiama Aurelio, è il boss della più importante famiglia di narcotrafficanti spagnoli. E l'omone che è con lui è un affiliato alla famiglia camorrista dei Di Lauro. Al commissariato gli consegnano un telefonino e una cintura con un GPS installato. È in quel momento che Gianfranco Franciosi diventa un collaboratore di giustizia. Come prima cosa è previsto che lui lavori veramente per il boss spagnolo. Per proteggere chi gli sta intorno, però, è costretto a mentire. È costretto a mentire a sua moglie, ai suoi 2 figli, al padre, ai colleghi del cantiere. Quando arriva la chiamata, parte senza dare spiegazioni a nessuno. viaggia molto in Spagna, Portogallo, Colombia, Venezuela. Diventa una specie di fratello maggiore per il giovane boss, che si fida ciecamente di lui. Durante i viaggi in Sud America diventano amici e poi viene arrestato al largo di Marsiglia dalla polizia francese. La polizia italiana abbandona Gianfranco in carcere in Francia per 8 mesi. Quando esce, Aurelio, il boss, bussa di nuovo. Lo ricompensa con un altro Rolex per aver mantenuto il silenzio e tutto torna come prima. Gianfranco ricomincia a mentire a tutti. A Bocca di Magra, provincia di La Spezia, al suo paese, tutti sono convinti che sia un delinquente. Sua moglie si stufa di quei viaggi senza spiegazione, del carcere. Il padre si ammala e viene a mancare, senza la possibilità di un ultimo chiarimento col figlio. Il boss Aurelio gli chiede di guidare il gommone fino alla nave cargo al largo dell'Oceano Atlantico. Con questa operazione Gianfranco permette alla polizia di sequestrare 12 tonnellate di cocaina, il più grande sequestro mai avvenuto nella storia del narcotraffico, e successivamente di arrestare finalmente Aurelio. A questo punto Gianfranco si illude un'altra volta che sia tutto finito, ma per lui incomincia un incubo ancora più grande. Entra nel programma di protezione dei testimoni di giustizia. Non fa nemmeno in tempo a salutare i suoi figli, che viene trasferito insieme alla nuova compagna e ai figli di lei. Gli vengono dati nuovi nomi, nuove identità, gli viene estinto il conto corrente, niente codice fiscale, niente patente, niente assistenza sanitaria e soprattutto niente spiegazioni. Il programma però non funziona. Dopo pochi mesi si sente chiamare fuori da un supermercato. È lo stesso affiliato del clan di Lauro, quello che aveva accompagnato Aurelio la prima volta, al cantiere. Col sorriso sulle labbra gli ricorda che loro sapranno sempre dove si nasconde. La nuova compagna non resiste, se ne torna a casa dopo un anno, anche Gianfranco abbandona il programma di protezione testimoni e torna a Bocca di Magra, dove riabbraccia i colleghi del cantiere e i suoi figli. Da allora vive guardandosi le spalle e ricevendo minacce ogni giorno. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar. Que temo ahogar de amor. Y cual este ser me vas a dar. Oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Amelia, casa Franciosi, 24 ottobre 2013, ore 7:40. Non è che sia realmente cambiato qualcosa, siamo sempre in apnea, non abbiamo soldi, lavoro, garanzie. I carabinieri continuano a citofonare 2 volte al giorno alla porta, aspettando il mio pollice alzato. Eppure, dal giorno del matrimonio, l'aria in casa è diversa, è più distesa. C'è una speranza immotivata, ma forte. È un gioco di prestigio. Ci siamo fatti distrarre dalla festa, abbiamo gli occhi fermi su quel momento, così abbiamo perso di vista il resto. Devo scendere a portare i bambini a scuola per accorgermi del trucco. Non li porto mai io, per sicurezza, ma sono di buon umore stamane. Edo e Alice sono in ritardo, scendiamo solo io e Chiara. La blindata è posteggiata dietro, devo spostare la smart per uscire. Amore, comincia a salire. Sto dormendo. Sono indifeso, sono impreparato. E infatti mi arriva come un calcio in faccia. Mi precipito, apro la portiera. Chiara, amore, corri in casa, di agli altri di aspettare su. La macchina non funziona, dobbiamo chiamare il meccanico. E a scuola come ci andiamo? Chiede lei. Oggi niente scuola, contenta? Ce ne stiamo tutti a casa. Mi avvicino alla parabrezza. Ho perso qualunque controllo, qualunque forma di pensiero, colpa del terrore. Li prendo. Tiro via il nastro dal vetro. Deborah è terrorizzata, continua a guardare fuori dalla finestra e a stringere Chanel, il nostro cane, mentre io urlo al telefono con il NOP. Aspettate, ricominciamo, gli dico. Forse mi sono spiegato male, quindi non avete capito. Quattro proiettili. Quattro. Attaccati al parabrezza della mia auto blindata con del nastro. Io sono Franciosi. Ve lo ricordate? Testimone di giustizia, facevo l'infiltrato. I narco spagnoli e colombiani mi cercano proprio qui a casa mia. Avete capito o no? Al telefono mi dicono che è una cosa per cui sono più che sufficienti i carabinieri della stazione di prossimità. Continuano a entrare e uscire lasciando la porta aperta adesso. Nessuno si preoccupa per la nostra protezione. Hanno preso i proiettili e li hanno messi in un sacchetto. Da non so dove è arrivato qualcuno attrezzato con una valigetta con il kit per le impronte, ma ho avuto l'impressione che mancasse la metà del materiale. Mentre giocano al piccolo chimico, arriva anche Mario. Il NOP di me non vuole saperne, ma a chi altro potevo chiedere? Non sembrano esserci impronte di sorta, né sui proiettili né sull'auto, dice. D'altro canto ha piovuto, la cosa non aiuta. Comunque le mandiamo a Parma per i test, magari trovano qualcosa. Il maresciallo si gira, fa per andarsene. Scusi, chiedo, ma noi? Voi chi, mi dice? Noi, dico, la famiglia, ci lasciate così? E come dovremmo lasciarvi, scusi, mi dice. Ma come, ci hanno appena recapitato dei proiettili, ci mollate qui da soli? Ma no, Franciosi, stia tranquillo, i proiettili sembrano perfino artigianali, si figuri. Potrebbe essere uno scherzo. Solo quest'uomo ha il potere di gettarmi lava nelle vene. Sono un testimone di giustizia, urlo, un testimone. Mi hanno trovato, qualcuno è entrato nel mio cortile passando dall'unico punto in cui le telecamere non riprendono e ha piazzato quattro proiettili sulla macchina con cui viaggiano i miei bambini. Le sembra una richiesta a piacimento la mia? Se ne va, senza salutare. Mario intanto se ne sta lì in piedi, davanti alla finestra, contro luce. Non lo vedo chiaramente, ma sento i suoi pensieri. Mi siedo mani al volto. Deborah dalla cucina mi chiede che cosa facciamo adesso. Non lo so, le dico. Ti giuro che non lo so. Magari hanno pure ragione loro, eh? Non è così preoccupante. Gianni, mi dice Mario, quelli di proiettili capiscono poco. Non ho detto nulla per non pestare i piedi a dei colleghi, ma quelle non erano pallottole standard. Erano incamiciate, a punta convessa, fatte artigianalmente, secondo me. Cosa vuol dire, Mario? Vuol dire, mi dice, che sono rivestite con il teflon e gli hanno fatto una punta studiata per penetrare la gran parte delle superfici. Le ho già viste una volta, molti anni fa, negli Stati Uniti. Servono a bucare giubbotti antiproiettile e vetri blindati. Sono fatte per ucciderti anche se sei nell'auto blindata, Gianni. Sai cosa significa, mi chiede. Certo, che sanno che abbiamo un'auto blindata. Non solo sanno dove siamo, ma sanno tutto quello che facciamo. Mario cerca di calmare Deb. Le spiega che non siamo soli. Gioca anche coi bambini. Io rimango immobile sul divano, a fissare lo schermo spento. Ci penso. E poi, forse, è ora di cambiare tattica. Afferro il telefono. Pronto, Ignazio, come stai? Senti, ho avuto un problema di sicurezza oggi. Com'è che si chiama sto giornalista? Voglio parlarci. È ora di uscire dall'oblio. Faccio l'intervista e racconto tutto. Basta così. La storia che vi abbiamo raccontato in questa puntata, che è dedicata a un nuovo vizio, quello dell'oblio, è appunto la storia di Gianfranco Franciosi. È una storia che è ritornata agli onori della cronaca recentemente, sicuramente per il libro che ne è uscito insomma 2 o 3 anni fa, che si intitola Gli orologi del diavolo, da cui abbiamo tratto proprio quest'ultimissimo brano, quest'ultimissimo pezzo di storia in cui Gianfranco riceve questo avvertimento. Sono quattro proiettili attaccati a una macchina che è una macchina blindata, cioè nonostante questi proiettili in teoria potrebbero perforarla. Questo libro è stato scritto da Gianfranco insieme a Federico Ruffo, che ne aveva raccontato la storia qualche tempo prima nel programma Presa Diretta. Gianfranco è ancora in giro, è felice, insomma è libero, ma continua ad essere in qualche modo sotto tiro. Lui ogni volta che ne parla, ogni volta che gli parlo, mi dice insomma che il tema della sicurezza è quello principale. È tornato a casa, lavora, ha una vita più o meno normale, ma non del tutto, insomma, e spesso e volentieri si sente dimenticato, si sente letteralmente perso nell'oblio. Per questo motivo vi abbiamo raccontato questa storia, abbiamo raccontato la sua storia. Tra l'altro, tra pochissimo, tra probabilmente questione di settimane, forse di mesi, non so la data esatta, da questa storia è stata tratta una serie televisiva che andrà in onda, credo, su Rai 1, ma ripeto, cercatelo in giro, Gli Orologi del Diavolo, sicuramente trovate qualche cosa di più. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare A Linee d'Ombra. Nate queste canzoni. Torna Come nasce una canzone. Questa volta andiamo alla scoperta dei grandi classici della musica italiana, con gli autori, i compositori, gli arrangiatori, i produttori, insieme a me, Marta Cagnola, ogni mercoledì una nuova puntata, in esclusiva, in podcast, sul sito e sulla app di Radio 24. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Provate ad immaginare di essere figlio di una madre e di un padre adottivo, insomma di un nuovo marito di vostra madre che è diventato di fatto vostro padre e vi ha cresciuto sempre, ma voi sapete che c'è un altro uomo, ovviamente, che è il padre naturale, che è sparito nel nulla, o meglio, sapete che non c'è più, sapete che è morto, però nessuno vi dice niente. Diciamo, l'oblio in questo caso viene volontariamente fatto scendere sulla figura di quest'uomo. Immaginate di essere Martin Pollack e di voler scoprire qualcosa di più di vostro padre. Martin Pollack, che è un giornalista e uno scrittore austriaco, comincia così il racconto della sua ricerca. All'inizio dell'estate del 2003, insieme a mia moglie, intraprese un viaggio in Sud Tirolo fino al Brennero per cercare il bunker nel quale 56 anni prima mio padre era stato trovato morto. Gli avevano sparato. Volevo saperne di più sulle circostanze della sua scomparsa. Per anni avevo esitato a svolgere queste indagini, forse per un inconscio timore di imbattermi, seguendo le sue tracce, in scoperte che avrebbero superato le mie aspettative, senz'altro già molto cupe. Di una cosa però ero convinto fin dall'inizio: la sua morte violenta era la conclusione di una vita in cui la violenza aveva giocato un ruolo di primo piano. Ecco, queste sono le prime parole della ricerca riguardo alla sua famiglia di Martin Pollack, che è austriaco e scrive su giornali e scrive libri. Una ricerca che lo porterà a scoprire alcune ombre che lo hanno sfiorato da molto molto vicino e di cui oggi, in questa giornata, che è la giornata della memoria, è fondamentale parlare. Di questa indagine ne ha fatto un libro pubblicato in Italia da Keller Editore, che si intitola Il morto nel bunker, in questa puntata dedicata al vizio dell'oblio. La seconda storia è quella di Martin Pollack. Seguiteci lungo le linee d'ombra. La gente del posto da noi interpellata conosceva la storia del cadavere nel bunker, e tuttavia nessuno era in grado di ricordare dove quel bunker si trovasse esattamente. Dopo qualche giorno di ricerca, finalmente giungemmo a un basso muretto di pietra coperto di vegetazione, dietro al quale scorgemmo una nicchia nella roccia in cui si apriva una fessura verticale. Era una porta, accostata per uno spiraglio, abilmente mimetizzata grazie a una lastra di fibra di vetro verde-grigio con delle gibbosità, delle pieghe. Poteva essere scambiata da chi la guardasse per una vecchia roccia. La porta si lasciò aprire con una facilità sorprendente. Entrammo in un piccolo locale, 2 metri per 2, ricoperto di muschio, con delle pareti umide di cemento e il soffitto in fibra di vetro. Nella parete di fronte c'era una porta di ferro dipinta di verde, rinforzata da spesse sbarre di metallo. All'altezza degli occhi uno spioncino con una piastra di ferro. La porta era serrata, saldata al suo telaio. Eravamo davanti al bunker in cui il 6 aprile del 47 era stato trovato il cadavere di mio padre. Non ho alcun ricordo personale di lui. Al momento della sua morte non avevo ancora compiuto 3 anni e lo avevo visto appena un paio di volte di sfuggita. Non posso dire di averlo mai conosciuto, ma ho avuto modo di conoscere molto bene i suoi genitori, i miei adoratissimi nonni. Il nonno era un uomo alto, robusto, e di morbido non aveva niente. Era collerico, focoso, un burbero da molti temuto. Con me era sempre buono. Il nonno mi trasmise il fascino delle armi. Acciaio lucente, armi da caccia, fucili a pallini, a cartucce, a rivoltelle. Si parlava sempre di armi, anche di quelle che si erano possedute un tempo, presenti come dei cari estenti. Lui aveva seppellito i suoi fucili da caccia nel 45, all'avvicinarsi dei russi, avvolti accuratamente in coperte e teli intrisi d'olio. E 5 anni dopo, quando ritornò a casa, non riuscì a ritrovarli, forse qualcuno li aveva disseppelliti. Papà venne mandato molto presto a studiare a Graz e là entrò in contatto con l'Heimwehren, un gruppo nazionalista paramilitare. L'università di Graz era una fucina del nazionalismo germanico, in seguito del nazionalsocialismo. Il che valeva per gli studenti come per il corpo insegnante. Nel novembre del 29 venne organizzata una grande manifestazione a Graz. Mio padre marciò in prima fila. Gli studenti di Graz, accanto al lato spensierato, comune a tutti gli studenti, ne mostravano uno più oscuro. Avevano imparato a odiare. Odiare ciò che stava attorno a loro. Lo Stato nuovo e debole, il parlamentarismo democratico, i partiti politici, i preti, i bolscevichi, i capitalisti, gli ebrei. Le potenze straniere che impedivano all'Austria l'Anschlub con la Germania. Gli sloveni, che gli avevano portato via la Stiria inferiore, volevano sovvertire la società dalle fondamenta, abbatterla, distruggere le istituzioni statali. Tutto avrebbe dovuto essere sottomesso a un nuovo, energico Führer. Per questo erano pronti a scendere in campo senza compromessi e con fanatismo. Per combattere i nemici politici, i dissenzienti, i rossi, se necessario pronti a far scorrere sangue. Il 30 ottobre del 31 mio padre entrò nel Partito Nazionalsocialista. Da casa non doveva aspettarsi nessun rimprovero. Il nonno c'era già entrato nell'agosto dello stesso anno. Every time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones. Take a load of your skin. Throw me all your stones. We need to sit around every time. Non credo che durante la mia infanzia mi fosse mai stata mostrata una foto di mio padre e nemmeno mi era stato spiegato perché avessi un padre a Linz, che era vivo e sposato con mia madre e che mi trattava proprio come il proprio figlio biologico, e invece ne avessi un secondo ad Amstetten, che era evidentemente morto. Fino ai 12 o 13 anni nessuno ritenne opportuno spiegarmi questi intricati rapporti familiari. Naturalmente a un certo punto sapevo benissimo come stavano le cose, che il mio vero padre era morto, si chiamava Gerhard Bascht, che era di Amstetten, dove abitavano i miei amati nonni. Credo di aver avuto 14 anni quando mia madre, con caute parole, alluse alle attività di mio padre durante la guerra, ma senza scendere nei dettagli. Se qualcuno dovesse chiederti che cosa faceva tuo padre, di che era consigliere governativo, mi istruiva invece mia nonna. Da lei non appresi molto di più. Non era soltanto colpa sua. Avrei potuto benissimo farle delle domande, ma non le feci. La sera del 19 febbraio del 38, a Graz e in altre località della Stiria si tennero grandi dimostrazioni. I nazisti portavano al braccio fasce con la svastica, gridavano Heil Hitler, cantavano canzoni vietate. Venivano venduti pubblicamente ritratti di Hitler che andarono a ruba. A Graz i sostenitori di Hitler sfilarono per le strade con fiaccole e bandiere. Qualche giorno dopo costrinsero il sindaco ad ammainare dal municipio la bandiera austriaca e ad issare quella con la svastica. La bandiera rosso-bianco-rossa venne fatta a pezzi da una folla in tumulto. Era la prima volta che la croce uncinata sventolava sopra ad un palazzo dell'amministrazione pubblica austriaca. Mio padre a quelle manifestazioni fu sempre in prima linea, tanto che 3 giorni dopo fu promosso ufficiale presso il comando della 35esima sezione delle SS a Graz. All'improvviso era diventato qualcuno. Fino a un attimo prima era un sobillatore illegale, ora era un potente con uniforme nera, il teschio sul berretto. Qualcuno davanti al quale le altre uniformi dovevano salutare battendo i tacchi con slancio. In quanto membro della Gestapo, mio padre, fin dal primo giorno, fece parte in maniera concreta del regime del terrore. Pergava liste di persone da arrestare, interrogava coloro che, secondo il suo arbitrio, venivano dichiarati nemici. Contribuì ad arrestare anche i rappresentanti di maggior spicco della comunità ebraica di Graz, contava 1700 membri. Molti di loro vennero deportati a Dachau o a Buchenwald. 6 mesi più tardi avanzò di grado e venne trasferito a Münster. Il 3 ottobre del 41 trasmise alle autorità competenti l'ordine di redigere una lista degli ebrei da sfollare. L'ordine era seguito da un foglio di istruzioni che riportava nel dettaglio che cosa gli ebrei avrebbero dovuto avere con sé nel viaggio e che cosa non potevano assolutamente portare. Lo scritto era firmato di suo pugno da mio padre. A guerra finita, nell'autunno del 46, mio padre, nella sua fuga, arrivò in Valpusteria, a Val d'Aura, dove trovò lavoro e alloggio come bracciante. Poco dopo arrivò alle terme del Brennero, da dove non era lontana la frontiera. Là cercò qualcuno che lo conducesse dall'altra parte in cambio di denaro per raggiungere Innsbruck e da là, probabilmente, fuggire in Sud America. Ingaggiò Rudolf, un contrabbandiere 25enne che, durante la traversata, si convinse che avesse molto denaro con sé. Gli sparò nel petto per derubarlo, quindi trascinò il corpo fino al vicino bunker, che conosceva bene. Rovistò tra i vestiti del morto e nel suo zaino, che tuttavia conteneva soltanto biancheria usata e qualche provvista. Il bottino fu magro, 3.000 lire, 20 scellini, un orologio e un anello d'oro. Dopo l'omicidio, l'assassino tornò a casa, gettando per strada la pistola. Quando all'inizio dell'estate del 2003 intrapresi questa ricerca sulle tracce di mio padre, partii dal difficile presupposto che egli fosse convinto di essere dalla parte giusta, di lottare per la giusta causa, per il futuro Reich, per l'unità e la purezza del popolo, della razza e tutto quanto proclamavano gli slogan di allora, a cui credettero in molti. Dopo anni di ricerca non ho cambiato idea. Tuttavia, nonostante l'enorme consenso che ebbe il nazismo, erano stati pochissimi a scegliere una carriera nella Gestapo. E allora perché lui sì? Perché è proprio mio padre? Questa domanda mi accompagna da molti anni come un'ombra opprimente, che so, non potrò mai scrollarmi di dosso. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. Lei è Billie Eilish, che è proprio fresca di questa notte, vincitrice di 5 Grammy Awards per questo disco, per questo brano e per tutto quello che ha fatto in questi ultimi mesi. Questa è sempre Linee d'Ombra. Ora chiudiamo qui questa seconda parte, sentiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare di Oblivion. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Piero Terraccione, paternità Giovanni. Il numero in alto a sinistra del foglio è A5506. il numero che mi venne tatuato sull'avambraccio sinistro. Anni 18, studente. Quel prigioniero mi ha salvato la vita. Avessi dichiarato i miei 15 anni, sarei stato mandato a morire insieme ai bambini. Ripartiamo da qui, abbiamo aperto così questa puntata e riprendiamo dalla voce di Marco Bagliani che legge proprio uno stralcio del diario di Piero Terracina per introdurre il nostro prossimo ospite che è Nicola Maranesi. Pronto, ciao Nicola, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Nicola è oltre che un amico di Linee d'Ombra, è già stato ospite, è un amico personale mio, ma questo chi se ne frega, è già stato ospite qui da noi, perché Nicola è un collaboratore, è uno storico, è uno scrittore ed è uno dei collaboratori di spicco, quantomeno il frontman spesso dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, che è un luogo, un posto, un'essenza direi di cui vi parliamo spesso, perché la nostra collaborazione con Nicola e con l'archivio è quasi quotidiana e moltissime delle storie che vi leggiamo le prendiamo da quel luogo, che è il luogo dove gli italiani possono lasciare i loro diari, le loro lettere personali o di famiglia. E con Nicola io partirei proprio dalla voce di Marco Bagliani per chiederti, Nicola, Piero Terracina è mancato nello scorso mese di dicembre, era un amico dell'archivio. Chi era esattamente Piero Terracina, Nicola? Era un amico dell'archivio, ti ringrazio per questo bellissimo omaggio. Lui insomma, è stato una dei testimoni più importanti della Shoah che ha avuto l'Italia negli ultimi anni. Lui è un sopravvissuto di quella terribile esperienza, era un ragazzo molto giovane quando è stato deportato insieme a tutta la famiglia ad Auschwitz, e la testimonianza di cui abbiamo ascoltato un frammento, la testimonianza che lui ha raccontato soprattutto negli ultimi anni della sua vita, è veramente un racconto straziante e toccante di quello che succedeva da quelle parti. Insomma, Piero è l'unico sopravvissuto della sua famiglia, degli 8 componenti della famiglia che sono stati deportati ad Auschwitz, e ha raccontato nella sua testimonianza per anni questo passaggio dolorosissimo dell'arrivo al campo di concentramento, della separazione dei genitori in particolare. Cioè, c'è questo frammento di memoria che lui raccontava sempre dell'ultimo saluto che gli dava la madre mentre veniva trasportata verso la camera a gas, già consapevole di quello che succedeva, che è qualcosa ogni volta che lo rileggo, che lo risento, mi commuovo. Certo. E negli ultimi anni Piero è stato poi un ospite d'onore alla manifestazione, al premio Pieve dell'archivio dei diari, e ci ha fatto dono, omaggio di una versione diciamo definitiva di questo suo racconto, di questa sua narrazione. Nicola, a proposito di questo, noi insomma lo crediamo noi, lo crede evidentemente anche l'archivio dei diari. In una giornata come questa, che è una giornata dedicata alla memoria e dedicata al ricordo delle vittime dell'Olocausto, noi siamo convinti appunto che le storie siano il modo migliore per tenerla viva la memoria, che sono il modo per ricordarci chi siamo. Prima di salutarci, purtroppo risalutarti, volevo chiederti che senso ha, perché l'archivio dei diari è così importante non solo per le persone che danno il loro diario, ma di fatto per tutti gli italiani, per questo paese. Perché preservare le memorie personali è così importante? Noi ci crediamo, Matteo, come voi, in maniera diversa facciamo la stessa cosa nel tenere in vita la memoria, e quello che facciamo è importante proprio per far sì che quello che ha detto in questi giorni, lo ripete da un po' di tempo Liliana Segre, la senatrice, non avvenga. Il suo monito, l'allarme che lancia è quello che il rischio che tutto quanto possa sparire, la vicenda della Shoah possa essere dimenticata e relegata in una riga su un libro di storia. E noi ci impegniamo tutti i giorni, quotidianamente, come presidio di memoria perché questo non avvenga, perché non sia soltanto una riga, ma siano molte righe, siano molte tradizioni. E siano delle storie, di fatto, siano dei pezzi di umanità. Noi, diciamo, per il nostro cerchiamo di farlo insieme a voi, e soprattutto se siete all'ascolto e non lo conoscete ancora, passate da Pieve Santo Stefano e andate a visitare l'archivio e il piccolo museo del diario. Grazie ancora Nicola, un bocca al lupo per tutto e a prestissimo. Grazie a voi Matteo, a presto. E noi, continuando a parlare di diario, rimaniamo a quello che di fatto è la nostra storia seriale, la storia con cui chiudiamo quotidianamente le puntate di Linee